Giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, scendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sono le 16:07, questa è Radio Onda Rossa e questa è l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Forte ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi! L'ora di buco è una trasmissione settimanale sulla scuola di Radio Onda Rossa con un suo blog che è oradibuco.noblogs.org, dove potete ascoltare le ormai 36 trasmissioni andate in onda, mi dicono, ma anche leggere molti dei documenti dei quali parliamo durante questa ora settimanale. Oradibuco@ondarossa.info è la mail. E prima di iniziare con la trasmissione vera e propria, vi ricordiamo che questa radio non campa d'aria, ma con il contributo di tutte e tutti noi. Così come Scarceranda domani sera giovedì sera, straordinariamente di giovedì e non di mercoledì, la cena di Scarceranda al Forte Prenestino. E visto che parliamo di giovedì 27 giugno, parliamo anche di Piazzale Clodio. La mattina alle 9 un presidio davanti al tribunale per la prima udienza del processo per devastazione e saccheggio. Vengono processate 18 persone per i fatti del 15 ottobre 2011 davanti appunto al tribunale il presidio per manifestare solidarietà ai e alle processate, per mettere fortemente in discussione insomma un reato come quello di devastazione e saccheggio che viene dritto dritto dal codice Rocco. Gli uccellini sentite in sottofondo sono in realtà i Beatles e non un tweet, perché noi siamo anche contrari a social network. Detto tutto ciò, possiamo entrare nel vivo di questa 36esima puntata dell'Ora di Buco. Vorremmo innanzitutto trattare un argomento molto importante e anche una situazione che ci sembra particolarmente grave. Si tratta di una circolare ministeriale uscita nel dicembre scorso e poi un'altra circolare applicativa di quella precedente uscita nel marzo scorso, quindi marzo 2013, che riguarda gli studenti e le studentesse con definite BES, cioè con bisogni educativi speciali. Images of broken light which dance before me like a million eyes. Anzi, questa circolare, che a molti ormai sarà nota, è una circolare del 6 marzo 2013 che definisce gli strumenti operativi da mettere in atto per il sostegno agli alunni che presentano bisogni educativi speciali. Al di là di quelli che sono gli strumenti che vengono identificati dalla circolare, che poi andremo rapidamente in qualche modo a valutare, quello che almeno insomma a una prima lettura sembra piuttosto interessante è proprio la definizione di quelli che sono i bisogni educativi speciali e le ricadute che la definizione dei bisogni educativi speciali in qualche modo hanno sulla definizione globale dell'area del sostegno, nel senso che cosa stabilisce questa circolare ministeriale? Questa circolare ministeriale stabilisce che in qualche modo si definisca un'area globale di alunni che hanno necessità di un'assistenza particolare, che possono presentare disturbi a diverso livello. In primo luogo, evidentemente, ci sono gli alunni certificati che hanno sempre avuto diritto all'insegnante di sostegno e che costituiscono in qualche modo un capitolo a parte. Dopodiché quest'area passa a definire quelli che quelli che sono i bisogni educativi speciali, l'area dei bisogni educativi speciali, che distingue in qualche modo in due categorie: gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento, in particolar modo la dislessia nelle sue diverse declinazioni, e questi alunni, per identificare questi alunni c'è necessità di una diagnosi funzionale, che può essere fatta da un ente pubblico o privato, ma sostanzialmente da un ente privato in prima battuta e poi confermata. E una terza area che invece riguarda alunni che hanno disturbi di livello differente, che vanno da quella che un tempo veniva definita l'iperattività, passando per quelli che sono ragazzi con funzionamento intellettivo limite, per arrivare alla vastissima area del disagio che può essere disagio culturale, che può essere disagio economico, ma anche disagio linguistico. Quindi in questa categoria vengono ricompresi anche gli alunni stranieri, oltre agli alunni che vivono elementi di emarginazione, fatti, situazioni di emarginazione dovute a situazioni economiche, sociali e così via dicendo. E sostanzialmente, oltre a scoprire questa circolare, il fatto che esistono questi alunni e queste situazioni nelle scuole, ne trasferisce il carico di cura, in qualche modo di cura didattica educativa, direttamente ai consigli di classe che avranno il compito di stabilire un piano educativo per ciascuno di questi ragazzi, un piano educativo individualizzato e personalizzato, che può avere varie applicazioni, può assumere vari connotati, tra cui non ultimo l'applicazione a questi ragazzi di quelli che sono gli strumenti compensativi e dispensativi che vengono normalmente adottati per gli studenti dislessici. Che cosa significa questo? Proprio quest'ultimo aspetto nello specifico significa che se noi prendiamo un ragazzo straniero che poniamo caso non è assolutamente alfabetizzato per quanto riguarda l'italiano, quindi che entra in una classe senza conoscere nessuna parola, una parola d'italiano, senza saperlo parlare, senza saperlo scrivere, questo ragazzo può essere dispensato da fare per esempio la lettura dell'italiano ad alta voce o la lettura stessa dell'italiano, dall'esercitarsi nell'italiano scritto in qualche misura e così via dicendo. La circolare specifica, questo è un caso particolare evidentemente, ma la circolare specifica che questo stato di bisogno educativo speciale evidentemente deve permanere per un tempo limitato, ma non spiega in quale modo questo ragazzo potrà poi uscire da questo bisogno educativo speciale. Questo ragazzo viene semplicemente dispensato, così come un ragazzo che abbia una situazione di svantaggio economico, sociale e così via può venire in qualche modo dispensato dallo svolgere quello che fanno i suoi compagni, cioè di fatto un ragazzo che non ha una patologia viene trattato come un ragazzo che ha una patologia, viene assimilato a un ragazzo che ha una patologia. La La circolare ministeriale di cui vi leggeremo brevissimi passi adesso è sinceramente abbastanza agghiacciante, anche per il linguaggio che usa e anche perché, come diceva prima la compagna, sembra scoprire il mondo innanzitutto il ministro, perché è a firma di Francesco Profumo, nel senso che si parla moltissimo della complessità delle classi fatte come sono fatte le classi, cioè fatte come sono fatti i gruppi umani, cioè nel senso dove ci sono persone che hanno caratteri e modalità, stili di vita diversi, che provengono da classi sociali diverse, che hanno strumenti economici e culturali diversi, che vengono da altri paesi e parlano altre lingue, che hanno disabilità, eccetera eccetera. Però voglio dire, per chi lavora a scuola tutto ciò non è che è una novità, forse cioè nel senso, noi insegnanti siamo abituati a lavorare in questo tipo di contesto perché questo è il mondo, non è un altro. Sì, infatti di fronte a queste classi gli insegnanti hanno sempre tentato in un modo o in un altro, con i limiti e con le carenze, ma anche con i punti di forza che sono propri di ciascuno, hanno in qualche modo sempre tentato di praticare una didattica che fosse una didattica di inclusività in qualche modo, nella misura in cui era possibile, era reso possibile dai dati di realtà. Non c'era certamente bisogno che questa didattica dell'inclusività, in cui tutti crediamo, questo è opportuno, è importante dirlo, in cui tutti crediamo, venisse imposta nelle modalità attuative da una circolare ministeriale che francamente sembra più escludere e etichettare piuttosto che includere. Per farvi capire di che si parla, appunto, questa circolare di dicembre molto lunga, sembra più un trattato che una circolare, dice appunto, scopre che esistono ragazzi e ragazze, ragazze non lo dice mai, il femminile non esiste in questa circolare, che si parla tantissimo di diversità, però evidentemente una sfugge. Però insomma, detto questo, si parla tantissimo di questi ragazzi con bisogni educativi speciali, si dice che possono essere, passo alla lettura, per motivi fisici, biologici, fisiologici o per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra una adeguata e personalizzata risposta, e questa personalizzata risposta dovrebbe essere elaborata grazie all'aiuto di centri territoriali di supporto, cioè un altro baraccone burocratico di livello provinciale che ci pare di aver capito, leggendo una circolare che è, mi pare, 12 cartelle, si tratti di centri che hanno elaborato un software da dare agli insegnanti. Non si è capito di quale livello di scuola, se è sempre lo stesso, dall'elementare alle superiori, non si sa, per lavorare con gli studenti BES, cioè con bisogni educativi speciali. Questo è quello che si deduce, però per questo hanno aperto un centro territoriale di sostegno per ogni provincia, e che sta in una scuola, indagheremo su dov'è a Roma perché nessuno l'ha mai sentito nominare sinceramente. E comunque, tornando alla circolare, questa circolare ci dice che l'area dei BES, dei bisogni educativi speciali, comprende tre grandi sottocategorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. E dice quindi, poi dice che si occuperà delle problematiche dei BES che non vengono certificati come disabilità, come handicap, perché dice c'è da aprire un diverso canale di cura educativa. Io vorrei sapere sinceramente, per chi l'ha scritto, cosa vuol dire cura educativa, però fa paura obiettivamente, perché c'è moltissimo linguaggio patologizzante in questa circolare. Dopo si passa a un particolare, a uno specifico paragrafo che parla di alunni con disturbi specifici. Specifica il paragrafo che questi alunni con disturbi specifici sono gli alunni con competenze intellettive nella norma, ma che hanno altri tipi di problemi, diciamo. Quindi si comincia a distinguere tra normali e anormali, evidentemente, perché se c'è una norma c'è un fuori dalla norma, questo si dice. Quindi poi si parla di ragazzi con intelligenza verbale associata a intelligenza non verbale, delle cose veramente farneticanti, almeno insomma alla mia lettura sono farneticanti. Poi si parla di alunni con deficit da disturbo dell'attenzione. anche il termine deficit vuol dire mancanza, insomma non è che sia proprio un termine correttissimo, ecco. E si parla quindi di ragazzi con disturbi dell'attenzione o iperattivi, questo è il paragrafo, e si dice che questi ragazzi spesso sono hanno queste disturbi in, scrive la circolare, comorbilità, non ho mai sentito dire, è un termine di uso quotidiano, tutti dicono comorbilità, quindi vuol dire che insieme hanno un'altra patologia, secondo loro, che bisogna almeno aver studiato latino, ecco, per levarne le gambe da questa parola, perché sul dizionario italiano non c'è. Dice che spesso i ragazzi e le ragazze che hanno disturbi dell'attenzione o che sono iperattivi hanno anche, attenzione, disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, cioè sono adolescenti, per quanto io riesca a leggere qui, perché sinceramente io vorrei sapere quale adolescente non ha il disturbo oppositivo provocatorio, per parlare con questo linguaggio patologizzante. Io ce l'avevo, ecco. Sembra sia del processo evolutivo della crescita, anche sembrerebbe, no? Chiamarlo proprio comorbilità a me mi pare un po' eccessivo, però se va, facciano loro. Chi c'ha tutto ciò dice che bisogna agire in sinergia tra famiglia, scuola e clinica. Clinica, dice così, clinica, per un processo riabilitativo che sia efficace ed efficiente. Riabilitativo, e per il loro successo formativo, non per il diritto allo studio, non esiste più, esiste il diritto, successo. Il successo formativo. Poi si passa a un altro gruppo di persone che vengono definite BES, e sono quelli con quelli che definisce questa circolare con funzionamento cognitivo limite, cioè specifica, con potenziali intellettivi non ottimali. I cretini, vuol dire la circolare, cioè nel senso, perché la circolare descrive un cretino ma non ha il coraggio di dirlo, sostanzialmente. Noi pensiamo che le persone abbiano intelligenze differenti, eccetera eccetera, la circolare no, quindi potrebbe essere un pochino più chiara in questa cosa. E e dice, insomma, che bisogna anche qui lavorare perché questi abbiano una, leggo dalla circolare, vita normale. E quindi torniamo appunto al fatto che esiste un modello di vita normale. Esiste una vita normale e una vita quindi anormale, e questi ragazzi devono essere apportati alla vita normale. Detto tutto ciò, il nome di uno che fa una vita normale è segnalato nella circolare? Il modello di vita normale, ce lo diranno, no? Per ora non ce l'hanno detto, però lo dovresti sapere da solo, perché tu devi sapere che funzionerà così. Tutte queste persone che vengono descritte come patologiche, quando capiamo benissimo che non lo sono, i consigli di classe, cioè un nucleo di insegnanti laureati, uno in matematica, uno in italiano, quell'altro in scienze, eccetera eccetera, dovrebbero dire quali sono i ragazzi con bisogni educativi speciali, e a quel punto attivare questo percorso. Che cosa vuol dire attivare questo percorso? Vuol dire attuare un percorso personalizzato fatto di compensazioni e dispense. Cosa vuol dire? Fatto di altri percorsi che questo ragazzo deve fare o questa ragazza deve fare a scuola, oppure più facilmente dal togliergli dei doveri. Quindi diciamo Pierino e Giorgetta hanno il disturbo positivo provocatorio, quindi non importa chiedere che imparino la storia, dispensiamoli dalla storia, oppure dispensiamoli da imparare a scrivere in una maniera comprensibile, oppure dispensiamoli di imparare a leggere a voce alta, li mettiamo in un angolo, magari disegnano o vedono DVD. Questo anche se sì. In questa categoria, in questa grande degli stranieri non abbiamo parlato, semplicemente perché la circolare li mette nel gruppo, ma non ne parla mai in specifico. Dice solo che possono essere BES anche persone che hanno il disturbo linguistico, nel senso che parlano un'altra lingua. Musica? In tutto questo, noi abbiamo fatto in questa faticosa lettura di questa circolare, è molto faticosa perché ha un linguaggio veramente parallelo. E quello che abbiamo capito è che questa se qualcuno pensa che invece abbiamo capito male, può telefonare allo 06 49 17 50 e spiegarcelo. Noi quello che abbiamo capito è che questa circolare serve essenzialmente a due cose: uno, a togliere dal diritto all'insegnante di sostegno altre categorie che fino a oggi ne avevano diritto, così come è successo per i dislessici e le dislessiche che fino a pochi anni fa avevano diritto all'insegnante di sostegno in classe, adesso non ne hanno più diritto. Con questa circolare altri gruppi di persone con alcune disabilità vengono tolte dal sostegno e inserite nella categoria BES, che significa semplicemente che non hanno più diritto a niente, perché un marchio ce l'hanno. E l'altra cosa è che viene data la responsabilità di un insegnamento personalizzato agli insegnanti curricolari, i quali dovranno sobbarcarsi, se non altro, tutto un percorso burocratico relativo all'individuazione e la messa a punto di percorsi personalizzati a costo zero, senza cioè che venga data una lira in più per questo, ma anche a formazione zero, certo. E quindi con competenze zero. Sì, c'è un'altra cosa forse da dire che è marginale, però è importante, cioè che evidentemente fino a oggi la presenza di un disabile certificato con insegnante di sostegno, che lo ricordiamo è insegnante di sostegno alla classe, dava luogo a un tetto massimo di numero di alunni per classe, conseguentemente mi pare che fossero non più di 20, ma potrei sbagliare, e conseguentemente quelle stesse, chiamiamole così, patologie tipo la dislessia in forme gravi, tipo appunto l'iperattività, tipo il funzionamento intellettivo ai limiti della norma, chiamate con nomi orribili, però quelle stesse patologie che in precedenza venivano certificate garantivano anche ai ragazzi che avevano questa, diciamo, questi disturbi e ai loro compagni di poter stare in un gruppo ristretto con un insegnante di sostegno. A questo punto evidentemente, saltando la certificazione di tutta una serie di disturbi, salta anche il tetto limite per tutta una serie di classi che continueranno a essere classi di 25, 30 persone e così via dicendo, senza insegnante di sostegno, ma con consigli di classe che in qualche modo diagnosticheranno questo tipo di disturbo e struttureranno piani didattici personalizzati. Non lo so, io credo che in tutto ciò dovremmo veramente riflettere molto prima di accettare quest'altro tassello, perché si tratta, a mio parere, di cose molto gravi, cioè di patologizzare bambini, bambine, ragazzi e ragazze che hanno un comportamento non del tutto allineato per mille motivi, dallo svantaggio economico-culturale a, appunto, la provenienza geografica, a anche, non lo so, un modo diverso di stare in classe, di trovare l'attenzione, di imparare a leggere e a scrivere, non importa, insomma le mille gamme che ci sono. Si tratta di nuovo di togliere, di continuare nello smantellamento della legge sull'handicap nella scuola italiana, che era una delle migliori in assoluto, la legge sull'integrazione della disabilità già è stata in parte smontata e si vuol procedere in questo, e poi si tratta, come dire, di fare degli insegnanti di fatto dei, a mio parere, dei guardiani di animali, cioè nel senso, perché se tu continui a mettermi in una classe con sempre più persone senza darmi gli strumenti per fare un lavoro decente, alla fine quello che importa è che io stia là e non li faccia andare in giro. No, viceversa, io so già di casi in cui le insegnanti o l'insegnante, appunto, non avendo gli strumenti, non essendo all'altezza, perché ha già anche il carico di una classe ben numerosa, si procede con le segnalazioni ai servizi sociali e ai vigili urbani. Quindi dei bambini, anche bambini, stiamo parlando anche magari iperattivi, appunto, che rientrano in queste formule, vengono segnalati. Sempre su questo, e poi mandiamo un brano musicale, segnaliamo che domani ci sarà un presidio davanti al Ministero dell'Istruzione in via Le Trastevere, domani 26 giugno alle 17, convocato dal coordinamento delle scuole di Roma per contrastare, leggo dal comunicato, per contrastare la riduzione degli organici per l'anno 2014 e contro gli effetti nefasti che prevediamo si determineranno con la circolare sui BES in tutti gli ordini di scuola e per tutte le sue componenti, cioè per gli insegnanti curricolari, per quelli di sostegno, per gli alunni e le alunne. Siamo venuti a sapere dalla stampa che lo stesso giorno, dice, ci sarà un incontro tra ministri e sindacati sulle medesime problematiche da noi sollevate. E comunque, vabbè, dice che il presidio è autonomo, non c'entra con questa cosa dei sindacati, ma che appunto invece si vuole andare a protestare proprio contro questa circolare di cui stavamo parlando, e quindi si invita tutti e tutte a partecipare al presidio che ha come titolo Bufala in carrozza. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. E riprendiamo con l'ora di buco, l'ultima mezz'ora dell'anno e dell'anno scolastico, dell'anno scolastico, certo. E mi piaceva fare un bilancio di quest'anno insieme a tutte voi, e un bilancio sia di questa trasmissione e parallelamente il bilancio di questo anno scolastico. E la prima puntata è stata il 3 ottobre, ricordo l'avevamo fatta un po' così per un po' all'avventura, pensando di riempirla in maniera diversa. In realtà siamo stati presi dalla, no, dalla cronaca, perché già in quelle prime settimane sono successe diverse cose. Profumo, come dire, ha dato il meglio di sé in quel periodo, e con la spending review e vari provvedimenti che adesso ripercorreremo molto rapidamente, ha scatenato quella che poteva sembrare, no, un movimento, una reazione di massa. In realtà non c'è stata, possiamo anche dirlo questa cosa, però diciamo poi dopo abbiamo raccontato settimanalmente tutto quello che avveniva all'interno della scuola dal nostro punto di vista, cioè le lavoratrici e i lavoratori della scuola, parlando anche di studenti, delle prove. Per fare questo bilancio mi sono servito, diciamo, di un'impostazione interessante che dà un blog che si chiama La Poesia e lo Spirito su WordPress, che ci ricorda tutto quello che è successo in quest'anno e soprattutto fa quell'operazione che noi abbiamo tentato di fare da questi microfoni, ovvero legare tutti i singoli provvedimenti, anche quest'ultima circolare, no, di cui abbiamo appena parlato, legarli tra di loro attraverso un filo rosso, una lettura un po' più ampia, quella che manca proprio nell'ora di buco all'interno delle nostre scuole, quando non si parla, non si vede, si avrebbe la possibilità di parlare, di osservare, di confrontarsi su questi argomenti, ma in realtà non se ne ha forse neanche più voglia. Il problema è se non si hanno neanche più gli strumenti, no? Che la cosa comincia a essere drammatica. E allora questa impostazione prevede che noi abbiamo assistito a un cambio del governo, anche un cambio di ministro, quindi da Profumo, che campeggia sul nostro blog, no? Un fotomontaggio campeggia nel nostro blog, si è passati al ministro Carrozza, ma di fatto, e prima di lui Gelmini, Moratti, Fioroni, eccetera. In realtà l'impostazione ci pare del tutto analoga, se non proprio una totale continuità nell'impostazione. E quindi, come dire, tutte le riforme che ognuno di questi ministri ha portato al nostro mondo, al mondo della scuola, di fatto possono essere classificate, divise in due grossi contenitori, cosiddette riforme, perché in realtà dietro questa parola viene mascherato questo attacco che noi abbiamo definito al diritto dello studio, alla libertà di insegnamento, oltre che di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il primo gruppo è le riforme viste soltanto come risparmio di soldi per lo Stato, apparente risparmio, perché poi sappiamo da un'analisi più attenta tagliare soldi alle scuole significa come dire tagliare le gambe al futuro della scuola e al futuro del paese. E quindi all'interno di questi provvedimenti più importanti, che come dire possono essere catalogati come tagli e quindi risparmio apparente di soldi, sono l'azzeramento dei fondi all'edilizia scolastica, le nostre scuole versano in una condizione drammatica, la riduzione del personale della scuola, che è stata fatta in molti modi, ma sostanzialmente noi nel triennio del governo Berlusconi abbiamo avuto 130.000 posti in meno nella scuola, 130.000 posti, 87.000 docenti in meno e 43.000 lavoratori e lavoratrici in meno del personale ATA. E questo è stato fatto con la riforma Fornero, che ha bloccato di fatto i pensionamenti, la diminuzione con la riforma Gelmini del numero delle ore di insegnamento, l'aumento del numero degli alunni per classe, l'accorpamento di classi, l'accorpamento di plessi. Noi passiamo da 10.000 istituzioni scolastiche plessi a il prossimo anno 8.500 scuole, la riduzione del personale tecnico pratico e quindi la cancellazione delle copresenze di laboratorio, che ha portato un altro taglio di posti di lavoro, la cancellazione dei docenti di sostegno, come abbiamo appena detto qualche minuto fa, la mancata assunzione per quest'anno del personale ATA e questo tentativo di trasferimento di 3-4.000 docenti cosiddetti inidonei nel personale ATA, che ancora, come dire, attacca ulteriormente, restringe ulteriormente il numero di posti di lavoro nelle scuole. E, altra riforma, tra virgolette, è la riduzione del salario reale, l'attacco al salario reale di chi lavora nella scuola, e questo è avvenuto sotto molte forme che anche il ministro Carrozza di fatto confermerà, e quindi il blocco del contratto, e il blocco degli scatti, il pagamento delle ferie a cui non si avrà più diritto dall'anno prossimo, il salario accessorio, il taglio del fondo FIS che è stato previsto nella spending review da Profumo, la trattenuta delle malattie dell'indennità, sì, per chi prende giorni di malattia, e anche per finire con lo stipendio dei precari, dei lavoratori precari, che non è stato corrisposto tempestivamente, ma è arrivato dopo diversi mesi per molti di loro. Tutto questo è stata fonte di risparmio. I danni che ha portato alle scuole, al lavoro di chi sta dentro le scuole, e quindi poi dopo all'attacco al diritto di studio dei ragazzi, quindi una lesione di questo diritto alle famiglie, è stato enorme. Nessuna motivazione didattica, in questo non c'è alcuna motivazione didattica. Le classi numerose non funzionano meglio, le classi con minore insegnanti non funzionano meglio, le classi con minore ore di studio non funzionano meglio. Per tacere poi il tentativo, che probabilmente continuerà anche con la nuova ministra, della riduzione di un anno del percorso di studi, che può essere previsto o in quinta superiore, come qualcuno sta dicendo, stanno sperimentando, oppure in un anno intermedio a cominciare dalla scuola primaria. L'altro grande gruppo delle riforme che sono state avviate e sono state continuate senza soluzione di continuità dai ministri sono quelle, diciamo, sull'esercizio del potere, e quindi una limitazione della libertà di insegnamento e del controllo verticistico del lavoro che viene svolto nelle scuole. Dal decreto Brunetta del 2009, il 150 del 2009 sulle sanzioni disciplinari per i lavoratori della scuola, quello che era chiamata la legge Aprea, e che poi adesso vedremo è stata in parte bloccata, ma ci si ripropone sempre, sul ruolo dei DS, che diventano i comandanti di questa azienda scuola, il tentativo di introdurre la gerarchia tra docenti e la famosa famigerata valutazione delle scuole, il sistema nazionale di valutazione, che è il regalo con cui Profumo ci ha lasciato l'8 marzo di quest'anno, che prevede, ne abbiamo parlato a lungo da questi microfoni, il sistema Invalsi come il sistema predominante per classificare scuole e lavoratori. Finiamo con le altre due questioni importanti, che sono come vengono arruolati, no? I nuovi insegnanti, e quindi con il TFA, il problema del TFA, ne abbiamo parlato a lungo, e anche il concorsone, ovvero che poi è diventato un concorsino con cui Profumo ha cominciato a ottobre a lanciare, no, questa propaganda dello svecchiamento della scuola, del rinnovamento, che se riuscirà ad andare in porto e collocherà pochissimi docenti a fronte di 300.000 precari nella scuola. Non so, noi abbiamo raccontato tutto questo, no? In realtà si parla soltanto di provvedimenti che attaccano la scuola e da quali noi possiamo difenderci, dovevamo difenderci, e quindi come ci si è difesi. All'inizio, come dire, il grosso problema è stato questo della spending review, che conteneva molte norme che poi sono passate, no? Tra queste che abbiamo elencato, e quella più clamorosa, quella che poi è assurta agli onori della cronaca, e quindi poi è diventata, no, l'oggetto principale delle contestazioni degli insegnanti, dei lavoratori e anche degli studenti, erano quelle delle 24 ore, no? Di insegnamento nelle scuole, quindi un aumento del 30%, del 33% del lavoro a parità di salario, e che Monti chiamò, no, un paio di orette in più nel che cosa volete che siano, no? Due ore in più nel lavoro di un privilegiato, di una privilegiata, che ha scatenato le proteste che noi conosciamo, quindi lo sciopero il 12 ottobre, il 14 novembre, e quello è stato fermato, però tutto il resto di fatto è passato. Forse anche l'altro aspetto positivo di questa protesta è stato che anche la legge Aprea di fatto è rientrata in questa protesta, e quindi il governo, il Parlamento in realtà all'epoca avrebbe preferito un pochino più di calma, di silenzio, per passare, no, senza troppi clamori, questa riforma che prevede appunto la gerarchizzazione dei docenti, prevedeva anche l'assunzione dei docenti, la chiamata diretta dei docenti, cioè una serie di attacchi sul modello lombardo, diciamo, una serie di attacchi alla scuola. Anche quella in realtà è stata bloccata. Dopodiché il silenzio. Io credo che tutto ciò è successo a partire da due governi che si sono succeduti in questi mesi, a partire da 20 anni della scuola pubblica. È un macro fenomeno che è successo e che a me sembra sia alla base, come dire, causa e conseguenza di tutto quello di cui si stava parlando, è il fatto che appunto si è passato, non, se la scuola, almeno in teoria la scuola pubblica, laica, di massa, come l'abbiamo pensata e voluta in tanti e tante in questo paese, viene lentamente smantellata tassello dopo tassello. Voglio dire, nella vecchia gestione DC la scuola era fatta di pochi mezzi, ma l'impianto generale non si era toccato, lo si è fatto dopo, e si sta cancellando completamente quello che è il concetto di diritto allo studio, e quindi del diritto di tutti e di tutte di avere gli strumenti per poter formarsi un proprio pensiero, un proprio modo di leggere la realtà, quello che un tempo si chiamava il pensiero critico, insomma. Sappiamo che un pensiero critico, per esserci, ha bisogno di alcuni strumenti di base, delle capacità, insomma, di decifrare un testo, che sia scritto, che sia numerico, e appunto da acquisire strumenti di lettura del mondo e che ti rendono anche capace di essere, come dire, di intraprendere percorsi autodeterminati, no? Tutto ciò si cerca di cancellarlo in nome di quello appunto che viene definito il successo formativo, cioè non c'è più il diritto allo studio per tutti e per tutte, ma c'è per i meritevoli la possibilità di accedere a delle agenzie formative, questo è il linguaggio attuale, agenzie formative che ti come dire, ti addestrano ad un sapere tecnico specialistico, che ti rendano capace di svolgere una ed una sola funzione senza una visione generale di te e del mondo. Questo mi sembra che sia poi il macro fenomeno che nella scuola del neoliberismo si sta portando avanti e che quest'anno, come dire, a marce forzate è stato spinto sull'acceleratore in questo paese, in altri forse siamo anche più avanti. Quindi qualcosa c'è stato anche di buono quest'anno, perché le grandi mobilitazioni di ottobre-novembre, parlo di quelle degli studenti e delle studentesse, perché i lavoratori e le lavoratrici della scuola non possono ancora dire di aver fatto grandi manifestazioni, però ci sono state grandi manifestazioni della scuola con studenti e studentesse che venivano da tutte le periferie, ce lo vogliamo ricordare in questo momento, e forse da lì bisogna ricominciare in un confronto trasversale, perché il processo da solo non si fermerà. Volevo solo aggiungere una cosa, che di fronte appunto al quadro di smantellamento della scuola pubblica e del diritto all'istruzione, a un pensiero critico, all'autodeterminazione, riassumiamoli brevemente così, i nostri valori di base almeno, c'è stato un progressivo, viceversa, aumento di risorse a favore delle scuole private. Quindi questo processo è andato invece maggiormente incrementandosi, e anche delle scuole confessionali, perché appunto anche la laicità della scuola è a rischio. Fortunatamente, ecco, permette un piccolo punto positivo, diciamo che anche si potrebbe ripartire da Bologna e dalla vittoria di un piccolo, di una città, loro stessi l'hanno definita Davide contro Golia, appunto di fronte a questo referendum che prevedeva, poi il referendum da sé sappiamo bene non è sufficiente, però il referendum che prevedeva il non stanziamento di soldi pubblici a scuole private e confessionali, ribadiamo il concetto perché poi la maggior parte sono confessionali, sì, cioè, circa il 90, più del 90%, ecco. E quindi questo mi direi di introdurlo anche come ulteriore nostro valore, cioè sempre una scuola laica e pubblica e non privata, non basata appunto sul reddito, sul censo, sulla classe e quant'altro. Beh sì, diciamo, è importante ricordarlo, perché anche se sembra piccolo come risultato, un referendum consultivo di una città di provincia Bologna, in realtà ha dentro di sé tutte le questioni, molte delle questioni che noi lamentiamo, e quindi la laicità, il diritto allo studio e anche, come dire, tutta la propaganda che intorno a questo piccolo evento, se vogliamo, è stata creata, e quindi il bombardamento sulle parole, sulla deformazione, la manipolazione del significato delle parole, quindi il senza oneri per lo Stato, che invece può essere della Costituzione, articolo 33 della Costituzione, che invece può essere benissimo derogato e chiamato in modi diversi, il fatto del risparmio, che no, l'istituzione, la presenza di scuole confessionali private può portare allo Stato, falso, e tutto questo quindi è stato proprio ripercorso e rivissuto da questi, come dire, visionari che hanno prima raccolto le firme, poi mobilitato la città e poi vinto il referendum. Sì, l'altro grande argomento, secondo me, che sta crescendo nelle nostre scuole, ma non solo nelle nostre scuole, perché insomma voglio dire proprio una banalità, ma insomma le scuole sono lo specchio del mondo in cui sono evidentemente rette, nel senso che noi viviamo dentro e fuori, non è che siamo sempre dentro, è a mio parere, ma ve la butto lì, insomma potete anche non essere d'accordo, parlo con i miei compagni e compagne di trasmissione, è l'autoritarismo che si respira, e che non è tanto nei confronti, cioè per chi ci ascolta, non è tanto la bacchetta verso lo studente, perché in questo mondo è più complesso l'autoritarismo di quello ma è un messaggio strisciante che passa da una parte all'insegnante che non può dire quello che vuole in classe, dall'altra sono le punizioni combinate per alcune azioni e non per altre agli studenti, per cui se protesti con l'invalsi ti becchi la sanzione, magari se fai invece, non so, se disturbi in classe no. Cioè vengono penalizzate, come dire, le azioni collettive, non tanto quelle individuali, e comunque voglio dire si respira sempre un'aria sempre più ristretta, non so come spiegarlo meglio, un'aria sempre meno fresca dentro le scuole. Sì, i luoghi di dibattito, di confronto e discussione nelle scuole sono ridottissimi. I sindacati faticano, forse non vogliono neanche farlo, avviarla questo confronto, perché perdono, forse hanno paura di perdere il controllo dei contenuti e anche delle forme di protesta. Dall'altro anche noi docenti, non come dire, nei collegi docenti, nei consigli di classe, Non ci prendiamo il nostro spazio, e quindi deleghiamo a presidi, ai dirigenti scolastici e dirigenti scolastiche a gestire tutto, e quindi di fatto quei momenti che sono di organizzazione, di anche creazione per la didattica, per questi spazi, di fatto diventano una votazione plebiscitaria quasi sempre di decisioni già prese nella stanza, sappiamo, nella stanza del dirigente, da 2-3 persone in ogni scuola, e questo è una cosa gravissima, e che noi viviamo e che forse ci sta bene così, non lo so, perché le proteste di ottobre e novembre di fatto hanno visto una piccola, marginale se vogliamo, presenza dei docenti e delle docenti. E l'ultima cosa che io voglio ricordare, non quella che dobbiamo, cioè poi voi ricorderete quello che vorrete, è come dire, un altro fatto che da dentro la scuola si vede molto bene. Molto spesso si sente dire che gli studenti di oggi sono meno preparati di studenti di altre epoche, e in gran parte è vero, non è falso, almeno per quello che noi vediamo a scuola, cioè si parla di capacità di leggere un testo e di comprenderlo, un testo di qualsiasi genere, capacità di esprimersi a parole o per scritto, e però questo non è un, può essere un caso. E la scuola e chi ci lavora dentro si dovrà prima o poi prendere il tempo di riflettere perché questo accade, e soprattutto partendo dal fatto che a nessuno gliene importa assolutamente niente che i ragazzi e le ragazze vengano a scuola e imparino qualcosa. Chi lavora nella scuola ha tutt'altri doveri, secondo chi ci sta sopra, insomma, che la scuola insegni qualcosa è un problema molto secondario, almeno per il 99% delle scuole. Ho la sensazione che ci interessi che si impari in poche scuole, non necessariamente private, ma licei del centro delle città, a cui ovviamente hanno accesso i figli, in gran parte i figli di alcune classi sociali, insomma, poi per caso ci può capitare anche qualcun altro, però certo non è la massa di chi frequenta quei licei. Il resto, l'importante è che stiano là. Sì, peraltro, se posso aggiungere, questo interesse non è dello Stato, ma di fondazioni, di gruppi che appartengono alla Confindustria, la lobby, che hanno bisogno di poche persone capaci di capire, di avere questo orizzonte un po' più ampio, fare un ragionamento logico. Questi da questi gruppi che noi abbiamo visto, no, le lamentele sullo stato della scuola, sui tagli, anche addirittura ai tagli della scuola, no? Dopodiché però non si ragiona sull'effettivo diritto, l'estensione del diritto allo studio, e quindi la cosa è doppiamente preoccupante. Lo Stato non si occupa di una cosa che dovrebbe avere a cuore, e in più se ne occupano persone che invece hanno solo l'interesse, come dire, opportunistico, di produrre quella piccola fetta di quantità di persone per il singolo Stato, per continuare a non, come dire, a non cambiare le cose. E siamo arrivati in fondo, se qualcuno vuole ancora aggiungere qualcosa, e poi ci rimangono i saluti, insomma. Sono le 16:57, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola. Diciamo che oggi è l'ultimo giorno di scuola, perché noi martedì prossimo non trasmetteremo, e non trasmetteremo per tutto luglio e per tutto agosto, e poi, sempre rimettendoci ai voleri dell'assemblea di redazione di questa radio, riprenderemo a settembre. Anzi, vi invitiamo caldamente a scriverci per dirci che ne pensate, insomma, di quello che abbiamo fatto fin qua. E la mail è oradibuco@ondarossa.info, e poi credo che ci risentiremo a settembre, insomma, ecco. Sì, io volevo ringraziare tutte voi, la radio, perché, come dire, mai avrei immaginato di fare questa fine e comunque ne sono molto contento. Buone vacanze. Buone vacanze a tutte e tutti. Buone vacanze. Io mi permetto così un fuori programma, e oggi non vi mandiamo la solita sigla di chiusura. Mi sembra, come dire, che questa canzone, che abbiamo già passato per la verità più di una volta, sia più in tema con i discorsi che abbiamo fatto. Sono Gli Assalti Frontali, e la traccia è Cattivi Maestri. Sempre pesi e corsi, abite e cassa, cieni e geni diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila. Ma a testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Va che basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori, pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci do a voglia, è stato bello, a voglia, e lo rifamo.